ad alta voce. Paolo Pierobon legge Le avventure di Gordon Pym di Edgar Allan Poe. Traduzione di Elio Vittorini. Dopo che il cuoco fu uscito dal castello di Prua, Augustus si lasciò andare per alcuni minuti alla disperazione, convinto che non l'avrebbero più tolto da quella cuccetta se non morto. Si decise allora a informare della mia presenza a bordo il primo uomo che sarebbe venuto giù, giudicando meglio mettere la mia sorte in mano agli ammutinati che lasciarmi perire di sete nella cala. Dopoiché erano già 10 giorni che mi trovavo imprigionato, mentre la mia brocca d'acqua costituiva una provvista a malapena sufficiente per 4 giorni. Rifletteva intorno a questo e tutto un tratto gli venne l'idea che poteva forse comunicare con me attraverso la grande cala. In altre circostanze, le difficoltà e il rischio dell'impresa lo avrebbero trattenuto dal tentarla, ma in quel momento egli aveva sotto ogni riguardo ben poco da aspettarsi dalla vita e quindi ben poco da perdere, ed applicò tutto il suo ingegno alla riuscita del tentativo. La prima questione da risolvere stava nelle manette, e siccome non vedeva il modo di sbarazzarsene, temette di trovarsi così paralizzato fin dal principio, ma ad un esame più attento si accorse che semplicemente comprimendo le mani poteva, senza sforzo soverchio e senza nessun inconveniente, far scivolare i ferri a suo piacere, trattandosi di manette inadatte a persone giovani le cui ossa delle membra, ancora tenere, cedono subito alla pressione. Si slegò allora i piedi e, lasciando la corda disposta in modo da poter riaggiustarla senza difficoltà nel caso che fosse disceso qualcuno, si mise ad esaminare il tavolato di divisione con la cala nel punto in cui vi si trovava attaccata la cuccetta. Lì la separazione consisteva in un asse di abete dolce dello spessore d'un pollice, ed egli vide che non gli sarebbe stato difficile aprirvisi un passaggio. In quel momento venne una voce dall'alto della scala ed egli ebbe appena il tempo di cacciare la mano destra dentro la manetta, la sinistra non era stata liberata, e di stringersi la corda alle caviglie in un nodo scorsoio, perché apparve Dirk Peters, seguito da Tiger, il quale saltò subito sulla cuccetta e vi si coricò. Il cane era stato condotto a bordo da Augustus. Questi sapeva del mio attaccamento all'animale e, pensando che mi avrebbe fatto piacere averlo con me durante il viaggio, era andato a cercarlo in casa di mio padre, subito dopo avermi chiuso nella cala, sebbene poi nel portarmi l'orologio non si fosse ricordato di parlarmene. Da quando era scoppiato l'ammutinamento, Augustus lo vedeva allora per la prima volta. Lo riteneva perduto, pensando che qualcuno degli scellerati partigiani del secondo lo avesse scaraventato fuori bordo. Seppe in seguito che la bestia si era infilata in un buco sotto ad un'imbarcazione, dal quale, non potendo rigirarsi, non sapeva più come uscire. Peters poi lo aveva tirato fuori di là, e per una specie di istinto generoso che il mio amico seppe apprezzare, aveva pensato di condurlo da lui onde gli tenesse compagnia. Insieme al cane, egli portò della carne salata, delle patate e una caraffa d'acqua. Quindi se ne risalì sul ponte promettendo di tornare con altre provviste l'indomani. Quando se ne fu andato, Augustus si liberò ambo le mani dalle manette e si slegò i piedi. Ripiegò poi il materasso sul quale era stato disteso e, con l'aiuto del temperino, che i furfanti avevano sdegnato di prendergli, si mise energicamente a praticare un taglio nell'asse, più vicino che gli era possibile al tavolaccio della cuccetta. Aveva scelto quel punto poiché, ove fosse stato improvvisamente interrotto dall'arrivo di qualcuno, avrebbe potuto dissimulare il già fatto solo lasciando ricadere il materasso nella posizione di prima. Ma per tutto il resto della giornata egli non fu più disturbato, sicché, prima di sera, aveva condotto a termine il taglio. Ora, bisogna notare che nessuno della ciurma dormiva più nel castello di Prua e che, dallo scoppio della rivolta, avevano tutti eletto domicilio in sala dove si davano buon tempo con le provviste e i vini di Capitan Barnard, senza più occuparsi della manovra se non quel tanto che era indispensabile. Questa circostanza veniva proprio a proposito per l'esecuzione del progetto di Augustus, il quale, diversamente, non avrebbe potuto raggiungermi. Pertanto, egli continuò il suo lavoro con animo fiducioso e il giorno spuntava prima che fosse arrivato a completare il secondo taglio che stava praticando a un piede più su del primo, in modo da ottenere un'apertura sufficiente per aprirsi un passaggio sul falso ponte. Una volta trovatosi là, non gli fu difficile raggiungere il gran boccaporto di sottocoperta, sebbene avesse dovuto scalare una fila di barili d'olio accatastati l'uno sull'altro, fin quasi all'altezza del ponte superiore, così che a stento c'era spazio per passare dall'altra parte. Giunto al boccaporto, si avvide che Tiger l'aveva seguito, certo insinuandosi tra i barili, ma ormai era troppo tardi per sperare di riuscire a spingersi sino a me prima che fosse giorno pieno, date le difficoltà che presentava il passaggio attraverso tutta la roba stipata nella cala inferiore. Decise dunque di risalire ad attendere sino alla notte ventura. A tal uopo, onde non perdere troppo tempo quando sarebbe ridisceso, si mise a togliere il boccaporto ed ecco che, non appena l'ebbe socchiuso, Tiger saltò sopra lo spiraglio, fiutò tutto smanioso per qualche istante, poi, emettendo un lungo gemito, si diede a grattare con le zampe come se volesse strappar via il coperchio. Era evidente, dal suo modo di fare, che la bestia sentiva la mia presenza nella cala e Augustus pensò che se la lasciava discendere essa mi avrebbe raggiunto. Gli venne allora l'idea di scrivermi un biglietto, già che era necessario, prima d'ogni cosa, che io non tentassi in alcun modo di uscire, date quelle circostanze, dal mio nascondiglio, e poi perché non poteva proprio dirsi sicuro di scendere a trovarmi l'indomani secondo il suo proposito. Gli eventi provarono come la sua idea fosse stata felice, in quanto che se io non avessi ricevuto il biglietto, mi sarei senza dubbio appigliato a qualche piano di disperazione per dare l'allarme all'equipaggio e tutti e due avremmo corso il rischio di perdere la vita. Presa dunque la risoluzione di scrivermi, restava la difficoltà di procurarsi i mezzi per farlo. Un vecchio stuzzicadenti fu ben presto trasformato in penna. Sebbene nel sottoponte ci fosse buio più nero della pece, e Augustus dovesse regolarsi in ogni cosa col semplice tatto. Di carta ne ebbe a sufficienza, potendo usufruire d'un foglio da lettera che era un duplicato della presunta lettera di Mr. Ross. Anzi, si trattava in vero della prima stesura di essa, poiché Augustus, trovando la calligrafia non abbastanza ben imitata, era tornato a scriverla cacciandosi la prima, per felice inavvertenza, nella tasca della giacca dove adesso, giusto a proposito, la scopriva. Non mancava dunque più che l'inchiostro ed egli se ne procurò subito l'equivalente praticandosi col temperino una lieve incisione sulla punta di un dito proprio sotto l'unghia. Il getto di sangue che ne scaturì, come di solito da queste ferite, fu copioso ed egli poté scrivere il biglietto nel modo migliore che la circostanza e l'oscurità gli permettevano. Riferiva brevemente della rivolta scoppiata a bordo, del capitano Barnard abbandonato al largo, e assicurandomi che potevo contare quanto alle provviste su un soccorso immediato, mi scongiurava di non azzardarmi a tradire la mia presenza. Concludeva con le parole seguenti: «Ho scarabocchiato queste righe col sangue. La tua vita dipende dal fatto di restare nascosto». Legò la striscia di carta addosso al cane e spinse la bestia giù per il boccaporto. Quindi se ne ritornò sui suoi passi al castello di prua, dove niente trovò di nuovo da fargli pensare che qualcuno della ciurma vi fosse disceso durante la sua assenza. A dissimulare il buco dell'assito, piantò il temperino nel legno e vi appese un camiciotto da marinaio che si trovava nella cuccetta. Poi si rimise le manette e si riadattò la corda attorno alle caviglie. Aveva appena terminato di mettersi a posto che giunse Dirk Peters, più ubriaco che mai e però di ottimo umore. Portava al mio amico la razione di viveri per quel giorno, consistente in una dozzina di grosse patate irlandesi arrosto e in una caraffa d'acqua. Si sedette un momento su un baule vicino alla cuccetta e si diede a parlare con insolita libertà del secondo e delle faccende di bordo, comportandosi in un modo stranissimo, persino grottesco, tanto che Augustus finì per essere inquieto. Ad ogni modo Peters se ne risalì sul ponte promettendo in un borbottio di portare l'indomani un buon pranzo al suo prigioniero. Nel corso della giornata vennero giù, insieme al cuoco, due ramponatori, tutti e tre ubriachi al massimo grado, e si misero a parlare, come già Peters, senza scrupoli né reticenze, di certi loro progetti. Pareva che fossero, nei riguardi dello scopo finale del viaggio, ognuno di opinione diversa, e che si trovassero d'accordo solo sul punto dell'attacco alla nave proveniente dalle isole di Capoverde, con la quale dovevano incontrarsi da un momento all'altro. Da quanto Augustus poté capire, la rivolta non era stata causata unicamente dall'avidità del bottino. Un risentimento personale del secondo di bordo contro Capitan Barnard ne era stato il principale incentivo. Ma adesso sembrava che tutto l'equipaggio fosse diviso in due fazioni, di cui una faceva capo al secondo e l'altra al cuoco. Ora, mentre l'una voleva impadronirsi della prima nave adatta ai loro fini che si fosse incontrata per equipaggiarla da corsara alle Antille, l'altra, la più forte, e della quale faceva parte Dirk Peters, tendeva a proseguire la rotta originaria del brigantino verso il Pacifico meridionale, per cacciarvi la balena o per altro, come meglio le circostanze avessero suggerito. Le argomentazioni di Peters, che aveva visitato più volte quelle regioni, impressionavano fortemente gli ammutinati, sempre incerti quali erano fra imprecise idee di profitto e di piacere. Egli parlava con insistenza del mondo di sconosciute seduzioni che avrebbero trovato fra le innumerevoli isole del Pacifico, della sicurezza perfetta e della libertà senza riserva che vi avrebbero goduto, e più particolarmente del clima delizioso, della sovrabbondanza di risorse naturali e della voluttuosa bellezza delle donne. Nulla, sino allora, era stato deciso, ma è certo che le descrizioni del meticcio avevano fatto presa sull'ardente fantasia dei marinai e che tutto rendeva probabile la realizzazione del suo piano. I tre uomini se ne tornarono via in capo a un'ora circa e per il resto della giornata nessuno si fece più vivo nel castello di prua. Augustus si tenne quieto sino al cadere della notte. Solo allora si liberò dai ferri e dalla corda, preparandosi al suo nuovo tentativo. In una delle cuccette trovò una bottiglia e la riempì con l'acqua della caraffa lasciata da Peters. Poi si cacciò in tasca delle patate fredde. Fu per lui una grande gioia che gli capitasse tra le mani una lanterna dentro la quale c'era ancora un mozzicone di stearica. Siccome aveva una scatola di zolfanelli, poteva accenderla nel momento che più gli fosse piaciuto. Così, appena fu del tutto sicuro, sistemate le coperte in modo da simulare un uomo coricato, passò di là dal buco tornando ad appendere, per nascondere l'apertura, il camiciotto al temperino. Cosa che fece, pur dal di dentro, senza difficoltà. Sul falso ponte si avanzò, scavalcata anche la barriera delle botti d'olio come la prima volta, sino al gran boccaporto. Là giunto, accese il suo pezzo di candela e si calò penosamente, a tastoni, tra tutta la confusione della cala. Il puzzo insopportabile e la pesantezza dell'aria non tardarono ad allarmarlo. Gli pareva impossibile che avessi potuto sopravvivere a così lunga prigionia respirando quell'aria soffocante. A più riprese mi chiamò per nome e, non avendo risposta, credette le sue apprensioni confermate. Il brigantino rullava con violenza, per cui c'era tanto rumore nella cala che egli non poteva sperare di avvertire il suono del mio respiro, anche nel caso che russassi. Aprì la lanterna e l'alzò tutte le volte che lo spazio gliene dava modo, più che possibile per farmi pervenire un po' di luce e lasciarmi capire, ove ancora fossi vivo, che il soccorso si avvicinava. Ma nessun rumore gli arrivava ancora da me, e la supposizione della mia morte cominciò a diventare per lui certezza. Decise tuttavia di aprirsi la strada sino alla mia cassa perché almeno non gli restassero dubbi sulla verità del suo timore. Nel più pietoso stato di ansietà continuò ancora per un poco ad avanzare fino a che non si trovò il cammino del tutto sbarrato, tanto che non poteva più fare un passo nella direzione in cui si era inoltrato. Vinto allora dalle proprie impressioni, si gettò tutto disperato fra mezzo alle casse e pianse come un bambino. Ma ecco che intese l'infrangersi della bottiglia che io avevo buttato a terra. Cosa fortunatissima questa, invero, poiché ad essa, per triviale che appaia, risultò legato il filo della mia sorte. Parecchio tempo trascorse, tuttavia, prima che venissi a conoscenza del fatto. Una naturale vergogna e il rimorso per la propria debolezza e la propria indecisione trattennero Augustus da confessarmi subito quello che un'intimità più profonda e senza riserva gli permise di rivelarmi in seguito. Trovandosi sbarrato il cammino da ostacoli insormontabili, egli si era deciso a rinunciare all'impresa e a risalire senz'altro sul castello di Prua. Ora, prima di condannarlo, bisogna prendere in considerazione tutte le circostanze avvilenti sotto l'incubo delle quali egli agiva. La notte stava già per passare e la sua assenza poteva essere notata, ciò che sarebbe avvenuto immancabilmente se egli non fosse ritornato alla sua cuccetta prima dello spuntar del giorno. La candela si andava spegnendo ed egli avrebbe incontrato maggiori difficoltà a farsi strada nel buio fino al boccaporto. Si vorrà ammettere, inoltre, che aveva tutte le ragioni possibili di credermi morto e che per conseguenza non vi era a suo giudizio nessun utile nello spingersi sino alla cassa e affrontare tanti pericoli. Mi aveva chiamato più volte e non gli avevo dato alcuna risposta. 11 giorni e 11 notti ero rimasto senza altra acqua che quella della brocca lasciatami da lui, ed era certo che io non potevo avermela razionata dal principio, mentre mi aspettavo di essere liberato al più presto. L'atmosfera della cala, a lui che veniva dall'aria in paragone pura, dal castello di Prua, doveva sembrare addirittura velenosa e assai più intollerabile di quanto non era parso a me nel momento in cui avevo preso stanza nella cassa, poiché fino allora si erano tenuti i boccaporti aperti per mesi e mesi. Ove poi, oltre tutto questo, si prendono ancora in considerazione la scena di sangue e di terrore di cui il mio amico era stato testimone pochi giorni prima, e la di lui prigionia, le privazioni, la morte scampata più volte, tanto da vicino, il labile ed equivoco patto dal quale, per così dire, dipendeva la sua vita, tutte circostanze tali da prostrare qualsivoglia specie di energia morale. Si può essere portati benissimo, come io lo fui, a giudicare la sua apparente mancanza d'amicizia più con dolore che con rabbia. L'infrangersi della bottiglia era stato udito distintamente da Augustus, eppure egli non fu sicuro che provenisse proprio dalla cala. Il dubbio, ad ogni modo, bastò per indurlo a perseverare. Si arrampicò fin quasi all'altezza del falso ponte sopra il cumulo delle merci e di lassù, afferrando un momento di calma tra un colpo di rullio e un altro, mi chiamò con tutta la voce che aveva in gola, senza preoccuparsi di poter essere udito da qualcuno dell'equipaggio. Si ricorderà che allora la sua voce era giunta fino a me, ma che io, sconvolto dall'emozione, non ero stato capace di rispondere. Convintosi in tal modo che il suo tremendo timore non era infondato, egli se ne discese di dove s'era arrampicato, col proposito di fare ritorno al castello di Prua senza più perdere altro tempo. Nella furia fece precipitare delle piccole casse e questo rumore, come si ricorderà, pervenne al mio orecchio. La caduta del mio coltello, poi, lo arrestò mentre s'era avanzato già parecchio sulla via del ritorno. Allora, tornato sui propri passi e di nuovo arrampicatosi in alto, gridò il mio nome più forte di quanto non avesse fatto la prima volta, approfittando di una tregua del rullio. Intanto io avevo ritrovato la voce e gli risposi. Pervaso di gioia, al vedere che ancora ero vivo, fu pronto ad affrontare ogni difficoltà e ogni pericolo pur di raggiungermi. Districatosi dunque più presto che gli fu possibile dal labirinto nel quale si era cacciato e capitato in un passaggio che prometteva meglio, arrivò alla cassa dopo molteplici sforzi in uno stato di assoluto sfinimento.